mentre meditavo questo Vangelo, mi è venuto spontaneo tradurre le mie riflessioni in preghiera. E allora lo faccio anche qui davanti a voi, eventualmente se qualcuno vuole imparare a come si medita il Vangelo, come lo si pensa e poi lo si trasmette col cuore, con la voce del cuore a Dio. O Signore Gesù, vedendo questo miracolo che tu fai su una persona sordo e muta, mi viene spontaneo ringraziarti per tutta la tua attenzione verso i sofferenti e nella giornata di oggi in cui ricordiamo l'apparizione di tua madre per la prima volta alla grotta di Massabielle a Lourdes, dove ha elargito tantissime grazie di cuore, ma anche di corpo, anche di salute, io ti chiedo, continua attraverso di lei questa opera di misericordia, perché la malattia è proprio brutta, il dolore è proprio cattivo e tanta gente ti invoca e tu degnati di esaudirla per il cuore misericordioso di Maria. Ma anche pensavo a tutta la gente che ancora oggi è sorda, o Gesù. Quanta gente c'è. Un mio giovane amico che risiede da anni in Giappone mi diceva: Don, ma qui Gesù non è neanche conosciuto. E tu sai, Gesù, quanti miliardi di persone al mondo neanche hanno sentito parlare di te. Apri il cuore e le orecchie di tanta gente. Ma penso anche nella mia Italia, quanta gente c'è che ha le orecchie chiuse. Tu mi fai conoscere tanta gente anche della borghesia, tanta gente intellettuale, tanta gente che sono sulla cresta del successo, e io vedo quanto sono sordi, quanto sono assenti dalla sintonia con te, o Gesù. Abbi pietà anche di loro, sono tuoi figli anche loro, anche se scusano benissimo senza di te. E poi ti chiedo di aprire il cuore e le orecchie anche della mia gente, questa gente per cui offro il mio sacerdozio, che sembrano sordi anche loro. Quanti pochi vengono ad ascoltare la tua parola. Manda il tuo Santo Spirito come una novella Pentecoste, o Gesù, e opera ancora miracoli sulle orecchie e sul cuore della gente. Ma poi tu apri anche la lingua per parlare. Ti chiedo, ordina bene la lingua della nostra gente. Abbiamo sentito nella scritto del Siracide delle parole tremende. Il calunniatore e l'uomo che è bugiardo hanno rovinato molti che stavano in pace. Le dicerie di una terza persona hanno sconvolto molti, hanno fatto ripudiare donne in gamba. Un colpo di frusta produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa. Molti sono caduti per la spada, ma non quanti sono periti per colpa della lingua. O Signore, tu vedi come viene usata male la lingua, e penso anche a tante persone pur buone che dicono: sa, io critico, ma senza fare del male. Signore, facci comprendere che tutte le volte che noi parliamo male di una persona, noi facciamo del male a lei perché parliamo senza amore, facciamo del male a noi perché mettiamo in evidenza magari gli errori degli altri, facciamo del male a coloro che ci ascoltano perché li scandalizziamo e se dicono anche, se anche un prete parla così, possiamo farlo anche noi. E infine anche la gente che parla male degli altri fa del male a chi ascolta, perché Sant'Ambrogio diceva: chi sta ad ascoltare incoraggia l'altro a parlare. E dunque, Signore, metti una custodia alla nostra lingua, alla nostra bocca, e rendici invece capaci di parlare bene di te. Rendici capaci di annunciare il tuo Vangelo, ma non con boria, con superbia, ma con umiltà. Donaci la tua sapienza, perché possiamo sapere quando tacere e quando parlare, come parlare a seconda della persona che abbiamo davanti. Lo stile tuo sia lo stile nostro, e così sia.